bastardo. Sotto la tua radio, ma lo dai? Sì, la radio non è molto buona, però il segnale è anche abbondante. Ma mi metto così. Aspetta un attimo. Sto regolando la stazionale. Così va bene. Sì, va bene, sei 9:10. La radio è ottima. Fabi. Tutto ok, Fabri? Sì, coglionito, cazzone e Claudio di Pontos. Ah, mi sembra Fabrizio. Oh, Claudio. Ciao Gianni. Ciao, buonasera comunque per i due. Oh, sì, così va bene, ma se aumenti in radio non ne hai più. Vi devo dare una brutta notizia. E cosa è successo? È morto un CB che conoscevamo. Un CB che conoscevamo? Cosa vuoi ti dica? Purtroppo si vive e si muore. Chi è che è morto? Preparati, Nino Torre Bravo. Beh, il Nino non stesse male, questo non avevo dubbi. Questo lo sapevo che stava male, neanche abbastanza. Poi, cosa devo dirti? Che ho passato l'infanzia con lui. Purtroppo è così. Lo so, sto andando al suo funerale io. E conoscevi Maria? Anche a Maria conoscevo, tutti e due. E io non mi posso muovere di casa. Stai attento a questi movimenti. Copriti bene. Ma no, sono stato in fondo nella chiesa, non mi sono esposto più di tanto. Hanno già fatto il funerale o stai andando? No, l'hanno già fatto, le 3:30. Nino abitava sempre lì vicino a quella zona dove abita Antonio Bombolo. Nella chiesa di San Capolinare l'hanno fatto, lì sì, vicino lì abitava. Lo so. Avevo sentito lui non da molto, saranno 5-6 mesi fa. Mi ha detto che non era in forma. Sì. Purtroppo ci ha lasciato anche lui. Vabbè, te l'ho detto come succede. Purtroppo è così. Vabbè, pazienza. Telefonerò adesso. Oggi no, domani telefonerò a Maria e farò le condoglianze, se vuoi ti dico. Io non posso muovere di casa, anche se mi dicevi stamattina non posso uscire, capito? Ma per mia precauzione no, perché però non posso uscire. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. Dai, riprendete, stavo dicendo Gianni che se aumenti non hai più radio, completamente vero. Se invece rimani così, allora la radio è buona. Ciao Claudio. Rimango in Coresca, non lo conoscevo e comunque dispiace sempre. È un altro che se n'è andato, è così. E magari lo conoscevi anche perché aveva la pizzeria Porto Torres di Antonini prima. Allora può darsi di sì. Prima l'ha avuta via Antonini, poi l'ha avuta di via Barai. Com'è che si chiamava? Nino. E Antonio si chiamava, non Nino. Nino lo chiamava. L'hanno chiamato Nino anche alla messa. Cau. Lo chiamavano Nino. Nino Cau. E adesso ho capito. Hai capito chi è? Sì, ma da molto che non lo vedevo più io. Forse adesso lo cammetto. Forse mi sa che c'era la palentina a Sassa. Comunque... Pianino lo conoscevo molto bene, anche perché ci avevamo portato insieme molte volte in macchina. E poi molte volte sono andato anche nelle sue pizzerie e tutto quanto, oltre che parlavamo al baracchino, vabbè, a parte quello, però ci conoscevamo molto bene. Lui aveva la mia stessa prerogativa, usciva con l'eco. Sai quanti anni avevo io quando Nino veniva a prendermi a casa e mi portava a Castelsardo? Stavo con lui tutto il giorno. Lui, 19 anni, ne ho 61 Gianni, fatti il conto, aveva il 125 Fiat, lui verde, con l'antenna dietro, pazzo furioso, ma mi dispiace tantissimo, sarei voluto essere per avere condoglianza a Maria, ma comunque, glielo spiego al telefono. Che cosa si vuole fare? Si andava in pizzeria molte volte anche da lui, quando scendeva a Porto Torre, se invece di andare dove vado adesso andavo da lui, perché lo conoscevo, siamo andati tante volte anche con la famiglia, sia via Antonelli sia di meno in via Balai, però via Antonelli siamo andati più volte. Ma non si chiamava Nino Torrebravo, il suo nome nativo era Vagabondo, Nino Vagabondo, poi se l'ha cambiato, si è messo Torrebravo, capite? Quindi non erano neanche sposati con Maria, infatti lo conto, non erano neanche sposati e non sono neanche sposati, perciò. Io l'ho conosciuto quando aveva la panetteria a Castelsardo, il forno a Castelsardo del pane, avevo 19 anni, stavo per fare 20, e lui scendeva apposta a Porto Torres perché portava il pane all'istituto nautico dove c'era mia madre, appunto, che si occupava di quelle cose, e quindi insomma ci siamo conosciuti, non avevo neanche 20 anni. Giugumbeano di tutti i colori con Nino, di tutti i colori, pure aveva preso il panificio toscano a Sassari, poi non è andato bene, poi è tornato a Catalsardo, poi è iniziato con le pizzerie, non solo a Porto Torres, ma anche mi ha gestito anche un alberghiero, e vabbè, come ti sto arrivando di radio? Io sono con 10 watt. Sento bene, ottimo. Gianni, ma quanto gliene sto dando? Gianni? Ah, a me stai dicendo. E io sono con 20 watt, dai. E io non seguo 20 watt, seguo 80. Ti giuro. Non sono con 80, sono con le... già lo sai, con l'apparecchio che ha la pancia, con quello lì sto scendendo. La massima potenza, non la minima però. Alla massima, sì. E sono 20 watt, non me lo siete. Quanto sono? Quanto saranno? Saranno 20 watt, quanto sono? Cosa siete? Sono modulati circa 80 watt con la radio da in AM alla potenza massima. In AM circa 80 watt. Se non ti sta segnando c'è qualche problema, fatto dire a me. Con il mio Daiwa, quella radio dava alla minima potenza quasi 20 watt, 15 modulati 20, alla massima potenza 80 PP. Sto chiedendo perché qui sta arrivando la V20, caspita. Sei uno di quelli che arriva più forte qua. Chi, Claudio? Tu. Ah, io? Forse perché si vedono le antenne, magari. Sto arrivando proprio sparato, veramente bene. Oh, Claudio, è così, dai, da una trentina di watt al massimo, adesso l'ho raccordato bene, sui 30 watt. Da. E come da 30 watt? Non è quella radio, ma era 80 quasi. 65-70, una cosa del genere, ma in banda laterale poi pompa di più. Niente. No, io sto andando con 430, 10 watt qua. 10 watt e il 430. Non so quanto stai arrivando, tu qua sei 9. Il segnale lì com'è? 9. Io 20 watt non modulati. Poi già sale un po'. E 9 stai arrivando anche tu. Vuol dire che combacia il ruolo. Bene. E lui ti vede a te, Apollo tecnologia, però non ti vedo. Comunque no, fa più che soddisfacente con 10 watt da qua. Lascio l'estate. L'estate ci attrezziamo. Tiriamo su queste benedette antenne che sono in terra. Sono per terra e mi stanno anche già un po' girando le balle perché i cavi sono buttati nel giardino, quindi devo canalizzare, fare un lavoro fatto a regola d'arte e tirare su le antenne. Va bene, dai, niente Gianni, io vi lascio, faccio un po' di stand-by perché sono stanco, mi sta facendo un po' di stanchezza questa cosa, quindi stare seduto mi sta dando fastidio, dai, mi sdraio. E ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao Gianni, buon proseguo, alle prossime, ciao. Ciao, ciao Claudio. Ascolta Claudio, purtroppo, non puoi dare un segnale adesso, come sto arrivando io adesso? Guarda, 1, 2, 3, prova. 9:30. Buono. E io come ti arrivo? Non ti posso dare un segnale perché ti dico la verità, non sta andando bene, il coso, il trasmitter, è inutile che ti dia segnali falsi, non sta andando bene, è rimino. Vabbè, c'è qualche problema che si scende a Santiago 9. Ma io? No, Gianni. Cosa tra? Si scende a 9. Perché ho staccato? No, è che si è staccato di luce in basso. Perché ho il minimo, la potenza minima. Per mettere a staccare quella roba là, ho dovuto abbassare la potenza dell'apparato. Ok, ok. Va bene. Meglio sapersi, non sa mai. Va bene, dai. Ciao Claudia. Ciao Gianni. Ci sentiamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao Claudia. Vabbè, comunque, adesso un attimino solo, Claudio, che controllo un po' la cordatura. Un secondo, se è giusto. Sì, ok. Adesso posso andare. Se guarda ti sono caldo. Kappa, adesso va bene? Una voglia. Questo è un bel apparato, non ha bisogno di nulla. Non ho capito che cos'è. Un cobra. Un cobra americano. Non lo conosco. Questi sono super apparecchi, da. C'è il dissipatore sotto e dietro. Ascolta, ma tu ci avevi una volta modulato con 6.009 o 9.009? Vabbè già. No, no, non ero io. Ciao Luca. È pronto. CRT? No, non ero io. Io lavoravo al Tourism Market, te lo dico tranquillamente, ero l'autista. Io mi sto dicendo, modulavi con stavo parlando di baracchino, di CRT. No, no, non ho avuto mai il CRT 2009. Ok. Va bene, me ne sto un po' in cuore che poi riprendo un po' più tardi, ci sentiamo più tardi. Va bene, ciao, ci sentiamo, buona serata, avanti. Ah, Edo più Ru. Ah, Lucrezia Borgia. Ah, Gianni Nannini, cantiamo una canzone. Oh, yeah. Che devo sentire? Non ti immagini che ti segue lungo sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Lasciate la bottiglia, lasciate il boccione pieno, buonasera. Io a Cristian. Oi Cristian, chi è stato tuo fratello? L'ho sentito, l'ascolto. Perché non sei entrato? Perché sto boccando la nostra sinistra per riparare il posto di casa. Vabbè che era. Oh, ma tu, bella lo senti acquista microfonicamente come radio. Suca, io ti ho fatto. Cosa ce l'hai troppo questo microfono? Abbassalo per appena acquista, se lo alzi non si può più di nulla. È tutto basso il microfono. Tutto basso. E allora il microfono che c'è la capsula che non sente. Non è chiara la radio. Il microfono è tutto basso. Adesso l'ho staccato 20 cm dalla bocca. Ah, il microfono è andato. Prova a mettere un altro microfono, non ce l'ha. No, ne ho altri. Non si sente chiara, per lo meno non mi apparato così. No, non sento bene, gli altri sento bene, a te. È una radio strana, ragazzi, sembra che ci sia il soffio, che sia soffiata. Così si sente. Ah, perché sono in macchina, la finestra è aperta. E non si è accorto di che cosa? Sono in macchina, la finestra è aperta. Ah, allora basta, allora metto tutto. Siamo tutti vada a fumare. Lucrezia. Non condannare, che lo facevi anche più prima. Sì, prima. 15 anni fa. Sempre fatto, dai. Pure io ho passato forse 11 anni già che non fumo più. Adesso mi vado in burichi con la sigaretta, sentendo un ubriaco me la devo far figlio. Croco. Aspetta un attimino già, che sto ascoltando un messaggio di mio nipote, che si trova a Londra, aspetta. Ah, va bene, hai fatto. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Dove stai andando, Cristian? Ho preso per la pompa sommersa, adesso va a motore. Chiudi il finestrino, cazzo, a ver se si sente meglio, non si capisce nulla. Così com'è, tutto basso? Boh, io non capisco niente. Non so se ci sia qualcuno all'ascolto, se lo capisce, però io non riesco a scandire le parole bene. Cosa la partita scarica? O no? Ma molto vicino alla bocca te lo stai mettendo? No, ce l'ho vicino ai temperi. E questo quando ce l'ho vicino un po' meglio se ho sentito. Adesso ce l'ho vicino ai temperi, l'ho messo. Dove stai andando? Dove sei? A testa di Bricomen. Ma si ferma? Ma si ferma adesso? Movimento solo. Vai, una prova a fermarti fai. Dove ti capita, fermati, voglio sentirti a vedere come esci da fermo. Se hai fatto che stai camminando o no. Sì, però te devo fermare per te, vai, devo andare veloce a fare un po' di saldi in questa stagione del conto. Non ho capito nulla. Guarda, fatto che ti fa la veloce, devo fare un po' di saldi in questa stagione. Devi andare alla veloce, capito. Alle poste. Capito. Vabbè, vediamo un po', Luca, ci sei? Luca è morto. Non ti immagini che tu che sei Wendell Gall. Lucrezia, dove sei andato? Vicino a città marcata. Luca si deve essere perso. Cristian, perché non ti metti l'altro microfono? Perché non ho preparato, è il Mobicom. È il Mobicom e non trovi altri microfoni per il Mobicom. Non ho preparato, perché non sto cercando neanche in vendita. Ma la radicchio. Cioè, adesso il microfono, vai da Fusano e c'è quello della ZKG. Ma non è se fa un microfono di scorta anche. Si costa una cazzata 22-23 euro mi pare, va bene. Io gli ho cambiato la capsula, quel microfono è una bomba. E voi la capsula non la so cambiare, io faccio altro mestiere. Basta mettere la capsula di quello del telefono. E va troppo bene. Ma il problema è che io sono Fabio, non sono elettricista, non sono tecnico elettricista, non intendo io. Ma un fratello è un tecnico, scusa. Vabbè, ma fate sta male, adesso lo fate non vi rompere le scatole perché non voglio andare a farci neanche. Tutto non si ci capisco un cacca. Ascolta. Boh, è strano, non è fuori frequenza, è proprio la radio. Sarà che il microfono mezzo che batti la scarica. Ecco, adesso è uscita più chiara. Mettilo lontano a vedere se ti capisco meglio. C'è il microfono che va a battere mezzo scarica, molto probabile. Adesso sto uscendo bene, lo vedi? Cosa devo fare? Nulla, non c'è fatto nulla. Non c'è nulla, ho già abbassato il volume, oppure te l'hai allontanato dalla bocca. qualcosa l'hai fatto perché se esce chiaro. Ma guarda, c'è una distanza dalla bocca, sono 30 centimetri, guarda, non di più. E parla piano, non parlate più fretta, se no ti mangi le parole. Perché ce l'ho vicino alla pancia il microfono, sia che becco qualche pattuglia circolazione. Lì si sente molto meglio, lo sai. Così è molto molto meglio. Qui va tutto. Così comprendi a lungo, la parola non riuscivi a scandirlo. Spengo così basso, vicino alla pancia, per questione di pulizia stradale, capito? Anch'io me lo mettevo così, me lo mettevo sopra a sedere del passeggero e parlavo e mi sentivano tutti. Purtroppo è la vita, guarda. Se ti trovo parlando mentre sei in movimento sono cacchi due. Ma patente è macchina. Ti mettono tutti i punti, non so cosa ti fanno, la busta più tutti la patente mi fanno. Cosa prende che era anche mio padre? Cosa c'è? La patente era lui. Patenti, che ne ho due io. Cos'hai? Non si è smesso che macchina di patente, tutti e due me la prendono. Che patenti vai due? Cosa vuol dire due? Sia per la moto grossa che per la macchina. Sia per la macchina che? Per la moto. Perché moto c'è? Vabbè, per la moto. Che io ce l'ho per la moto e per la macchina. Basta che tu avevi conseguito la B, quando l'ho conseguita io ce li ho tutti e due. Non c'ho tutti e due, prima ho preso quella la moto, poi quella la macchina. Sto scendo tutto impastato. Ma che tu lo senti così, Cla? Sono col 430 che c'ha tutti i filtri, mi sembra cattolo di un extraterrestre. Ah, se adesso ha migliorato, prima si compri di Aruda. Ma chi è Cristian? Chi è Cristian, No, se scendo oggi male, Cristian. Ho sentito meglio altre volte. Il microfono è sicuramente. O ce l'ha troppo alto di volume, o ce l'ho tenuto troppo vicino alla bocca. Lui già parla un po' in fretta. Quindi le parole si sovrappongono, poi il microfono l'ho tenuto troppo vicino alla bocca perché quando se l'ha messo sulla pancia lo sentivo lì. Non so, me lo sento tutto impastato. Fischia. Eia. QRM. Che sono rimasto al traffico di Sassari, il casino del vecchio. A Sassari sì. La Pasqua c'è un macello di traffico. Sì, ma di questi sono finiti, c'è la Befana e poi le feste se ne vanno. Ma le feste natalizie sono finite. Che traffico c'è? Oh, buonasera. Buonasera a lei. Io odio il traffico in macchina, lo odio. Aspetta, fai entrare il signore, avanti. Sì, buonasera, buonasera Cristian, Gianni e Claudio. Ciao, mi siete entrati anche a te Eugenio. Avanti Cla. Fate le mani all'ascolto, ciao anche Eugenio. Avanti Cristian, lo senti Eugenio da Porto Torres? Lo sento basso basso, perché sono da Pasqua e sono proprio dagli alberi. Già, sta parlando. Gianni, Gianni, se mi senti, fa un fischio. Cristian, mi ascolti, attento Cristian. Io ti ascolto abbastanza bene, vai tranquillo. A volte riesco a tirarti fuori, a volte no, dove sei? Gianni. Gianni, ci sei? Gianni. Ecco, binario 10. Ecco, binario 10. Ora, ora, ora, ora, ora. Claudio. Claudio. No, ero a Ogilo, stavo ritirando la macchina di mia moglie. Quindi ancora, se diciamo oltre la città sei? Sì, esatto, sono quasi arrivato verso Terra Secca Alta. Caro, mi dispiace, ma non riesco a capire. Sentiamo dopo a casa. Negativo. Vale, aspetta un po', se ti avvicini. Ti stai avvicinando verso Sassari? Yes, sono 2 chilometri da Sassari. Porca miseria, non riesco a tirarti fuori. All'inizio ti sentivo bene, adesso ti ho perso. Aspettiamo zone migliori, dai. Eia, sono a 2 chilometri da Sassari adesso. Sento che parli. Adesso dovresti sentirmi. Sì, adesso inizio già a sentirti bene di radio. Praticamente sono quasi a Sassari. Moto QSB. C'è moto QSB. Tu invece mi senti sempre bene lì? Qua già arrivi bene. Io sono dove c'è quel centro ecologico. Quindi sei molto coperto rispetto a me, dai. Tu sei molto giù e quindi arriverò a fatica qua con la base magnetica. Sassari, Sassari, dai. Diciamo le ultime case nella periferia di Sassari. Adesso sono proprio alla rotatura di Sassari, diciamo, tra quella che ti porta a Scala di Gioca, che ti viene a sinistra. Vengo? Buongiorno, siamo esattamente ai due opposti. Avanti. Ciao Franco, Gianni, buonasera, allora. Male Gianni, tu ascolti meglio, se ti ho perso, io a volte lo perdo. Avanti Gianni, buonasera. Veia, ciao Franco, ciao Carlo, sì, è a Svarioni, dai, è in Baramobile, quindi. Va bene, lo sento. Avanti Carlo. Sì, adesso sono proprio arrivato a Sassari, dove c'è la parte della Gonzaga, quella roba che c'è su. Cosa hai detto già? Dove è arrivato? Ha passato il Gonzaga, sta scendendo dalle parti basse, dai. Bene, piano piano. Diciamo ascolto meglio, molto meglio da casa, eh? Lo credo, da casa già mi ascolti bene. Quindi sei soddisfatto di questa antenna? Franco e Gianni, ci sentiamo tra 10 minuti da casa perché devo fare benzina adesso. Il capo dopo. E tu Gianni, niente? Io sono... No, non ho fatto niente, adesso sto usando l'Uranus, ogni tanto lo aggancio per farlo andare. E niente, dai. Niente, per il momento nessun'altra modifica, per ora. Vediamo un po' nei prossimi giorni, dai. Vediamo un po' se riesco a comprarmi quest'antennino, questa antenna e a metterla su, dai. Mi dovrebbero portare... un amico mi ha buscato il palo, dovrebbe portarmelo a casa. Niente, quindi un passettino alla volta, dai. L'antenna ce l'hai già, no? Negativo. Prima buscamo il palo e poi vediamo di prendere l'antenna, dai. Vabbè, ieri stavo provando un'altra. Sembra che vada bene, addirittura è semplice, senza neanche condensatore, neanche adattatore di impedenza, nulla, proprio un cavo saldato a quello coassiale, con la bobina sotto e basta. Tipo dipolo verticale, così è? Tipo un dipolo verticale, aspetto di filo, mi sembra che sia su 260, mi sembra. 260 di radiale, 260 della parte bassa, e poi 16 giri di attorno alla bobina, anche se non è, mi sembra di voler da 7, li ho fatti da 6 e qualcosa, 663, però più o meno, giusto per provarla. Il risultato qual è stato? Praticamente uguale all'altra, ma senza fare casini di saldatura, cose uguali, questa la fai in un minuto, la fai questa qua. E sembra, ed è addirittura più corta, quella là è più di 7 metri, questa è poco più di 5. Ascolta, il diametro dove è fissata la bobina quant'è? Avevo un tubo di una vecchia bobina, forse non so se di cespugliatore, non mi ricordo, dove c'è il filo bobinato. Credo che sia sui 7 centimetri, 6 qualcosa. O Oppure a volte uso i tubi di DAI che usano per fare impianti elettrici, che sono anche quelli un po' più di 60, sono più o meno la misura è quella, dai 6 ai 7 cm. Ho capito, ho capito. Quindi in sostanza la resa è più o meno simile, dai. No, proprio simile. Simile quando addirittura è leggermente anche più bassa l'antenna, perché l'altra canna che stavo usando è 8 metri, questa è 7 metri. Là addirittura c'era anche un pezzo di legno, quindi per sollevarla ancora di più, qua non c'era niente. Quindi gira gira, probabile che renda anche meglio, probabile. Dobbiamo provarla poi in campo aperto. Inutile, quindi non posso neanche tararla, perché magari poi la provi fuori in campo libero ed è totalmente diversa, capito? Qua c'è il muro. Sempre la solita questione, dai. Attaccate al muro. E vabbè, dai. Già capiterà, sicuramente ti capiterà l'occasione per fare qualche lavoretto sul tetto e approfittarne, dai. Per tararla e accordarla l'ho fatto in campo aperto, infatti non è che mi sono appentato, come dice, più di tanto. Ho visto che il rosso era attorno a 1,2, 1,3, quindi abbastanza tarata, dai. Ehi, stai usando sempre la stessa roba, sì? Sì, no, il resto è sempre uguale. Bene, da come mi ascolti con l'Urano, se il microfono normale? No, bene, arrivi bene qua. Bene meda, vai, ogni tanto lo aggancio, lo faccio girare. È che adesso con questo alimentatore che ho io, praticamente l'alimentatore sta dando 12,5 volt, dai, quindi non lo sto alimentando a pieno regime. Sicuramente se lo alimento a 13,5 sicuramente magari tira fuori qualcosina in più. Comunque va già bene così, dai. Perché non hai quegli alimentatori, quelli switching, quelli da computer, te lo tari, te lo fai a 13,8 con lo strumentino, magari qualche watt in più, come dici tu, lo puoi tirare fuori. Guarda, l'alimentatore che sto usando è tipo, è presente gli alimentatori portatili, quelli da PC portatili, voglio dire. Avevo una busta con tanta di quella roba e ho trovato questo da, c'è scritto 13 volts, ma fondamentalmente sotto tensione praticamente costante ne dà 12,5. Ho visto che fa benissimo, per cui sai, gli ho fatto le connessioni e ho attaccato questo. È come amperaggio quanto ti dà, quanto c'è scritto? Guarda, adesso praticamente dietro un mobiletto, quindi mi viene un po' male, non lo so, guarda, non ricordo male, dovrebbe essere dai 4 ai 5 ampere, se non ricordo male. E quindi non è messo male, dai, un bel trasformatore. Ehi, c'ha l'attacco quello classico, sciucco, a vaschetta, quello con i tre connettori, e gli ho fatto la croce, gli ho saldato praticamente il cavo rosso e nero, non rosa, è perfetto, non ha ventole, non ha nuda, e va benissimo. E adesso devo controllare per se ne è un altro per l'altra radio, così li metto sotto tutti e due sotto tensione, e poi magari più avanti busco un commutatore d'antenna, così almeno li tengo collegati entrambi, dai. E occhio cosa prendi, perché molti di quelli tipo quelli della ZG, no? Che valgono quello che mi paghi alla fine, quindi meglio a volte saccare e attaccare, sei più sicuro, che a volte danno difetti, non escono magari e rischi di bruciare il finale. Vabbè, molta gente si lamenta di questa apparecchietta, ma non che non siano di qualità, ma quelli li paghi qualcosina in più. Comunque non sembri sottoalimentato, perché c'è i picchi positivi, sta scaldando come alimentatore, no? No, è assolutamente... non ha mai scaldato, dai. Sì, anche qua nello smitter vedo che quando parlo il bambino è sveglio, dai. No, le luci sono costanti, cioè sia il display che la luce bianca dello smitter sono costanti, non c'è praticamente questo calo di tensione tra la ricezione e la trasmissione, dai, quindi lo regge, va bene così. No, infatti non dà segni di cedimento. Bene, Meda, anche qui sono stati risparmiati. Ah no, io tutto quello che riesco a riciclare riciclo, da voi se non è possibile giro lampo, però faccio di tutto per riutilizzare l'utilizzabile, dai. Sì, anche l'altro giorno mi sono stancato di mettere batterie in queste macchinette per controllare la pressione. Ho visto che c'era un trasformatore e l'ho messo uno spinotto intestata al cavo adeguato. Ho visto che il voltaggio era uguale. E adesso collego e ho detto addio alle batterie. Ho sempre recuperato, come dici tu, da un cassetto il trasformatore. Anche quello è grosso, Ehi, ascolta, siccome adesso non mi ricordo se questa radio l'ho provata in FM, proviamo a fare qualche passaggio in FM, ti va? Sì, proviamo, ripeto, il mio non è tarato come FM, però proviamo, dai. Ok, sto andando, canale 10 27.75 123, prova. No, c'è anche il segnale, è uguale. Poi c'è molta gente che dice in FM ti ascolto più forte, io non lo so, per me qui non cambia nulla. Andavè, anche io ho detto, ma magari sicuramente un cc in più magari spinge, e niente, vabbè, dai. Magari apparecchi professionali, magari, quindi c'hanno qualcosina di più. Questi sono baracchini. È un giocattolino, dai. Cioè, come radio è bellina, veicolare è bellino, infatti, ti ripeto, stavo provando a tradurre quella cosa, poi me ne passa della gara. Non c'ho più la pazienza di un tempo, dai. Beh, ma almeno le cose più importanti. Non sei riuscito almeno come memorizzare i canali? No, quello no, sono riuscito a trovare la funzione scan praticamente. Quella sono riuscito a trovarla, adesso devo smanettare un attimino per provare a memorizzare alcune frequenze, visto che c'ha determinate memorie. Infatti voglio memorizzare alcuni canali, però sai, la pazienza non è quella di un tempo, per cui mi rompo le balle subito. Beh, un po' anch'io sono così, quando le cose non vanno subito, non dico che mi spazientisco, però abbandono, magari riprendo un altro giorno. Veia, aspetta che levo il bipi. No, col mic schiacciato non si può levare il bipi. Ma ce l'hai dove, nel mic? No, negativo, c'è il pulsantino retroilluminato con la scritta Roger Bipi. Invece su questo non si può togliere, sull'altro che ho in macchina sì, qua il bip è perenne, è fisso, bisogna fare qualche accrocchio, magari qualche interruttorino dietro, ma se non dà fastidio, Ehi, ascolta, dai, proviamo a fare un passaggio in USB, Unifor Sierra Bravo, dai, uno veloce. E non c'è fretta, guardate, ne abbiamo tempo. Ok, mi senti Franco? Fai un passaggio un po' più lungo tu che ti devo centrare. Ehi, sì, adesso ti ho, con Clarifer ti ho centrato, dai, ti ascolto. Tu più o meno sei sempre uguale. Adesso questa radio invece in USB com'è? manda vecchio, quindi tra virgolette nessun vantaggio, dai. Andare, dai, torniamo in AM, ok. Torniamo in AM, eccomi. No, va bene, dai, guardate che funzioni dappertutto. Sì, sì, sì. Vabbè, l'LC era già aperta quando mi è stato dato. Devo appena appena toccare il trimmer dello smitter in ricezione, perché non è un po' a conto suo. Lo voglio più o meno regolare come il Jopix, dai, che è molto più fedele. Vabbè, più avaro? No, praticamente leggermente più abbondante, dai. Infatti a occhiometro mi ricordo più o meno i segnali, questo è leggermente più appena abbondante, dai. Vabbè, comunque già è una cavolata, dai. Anche qua questi li avevo tutti, questi erano al contrario. Tendono sempre a essere molto avari questi smitter qua, ma di tutta questa serie. C'hanno la come si dice, le strozzature con gli scooter. Beh, addirittura adesso questo qua è troppo fluido, prima era più lento a salire. Sicuramente ho fatto la regolazione non solo dal trimmer, ma ho toccato anche sopra quella vitina che c'è sopra lo smitter proprio. E allora ho alleggerito troppo, perché prima si impuntava. Adesso è il contrario, cioè se uno è vicino mi sbatte la lancetta a fondo scala all'inizio e poi torna indietro. Insomma, non si riesce a trovare una via di mezzo, dai. Ehi, da cena, che non ho voglia di aprirlo di nuovo. Prima era lento, sai, solo a freddo. Appena, diciamo, i componenti scaldavano, la luce creava sicuramente all'interno dello smitter una temperatura più alta, e allora era più fluido. Però a freddo, cavolo, faceva fatica a salire. Arrivava e si fermava quasi sul 9, insomma, tipo una frizione, un attrito. Adesso invece vaga una bellezza. Ho smontato il rosmetro perché ci aveva dei piedini in gomma dietro che erano instabili, infatti adesso gli ho messo un po' di ATAC, tra un po' lo ricollego, vediamo se si muove, dai. Adesso sono, come dice, cazzo mi fate ridere, come dice lei, da acceso in high power, cazzo, sono 4 watt scarsi, cazzo. Vabbè, anche questo io l'ho abbassato, adesso sono 4 e mezzo che sta dando, l'apparato, sto dicendo. Il pulsantino, sto uscendo con la in posizione bassa, si sente la differenza? Aspetta che è entrato qualcuno, avanti Natali. Ho parlato a lungo. Ciao Franco. Ho trovato esattamente il ramo che abbiamo. Per forza ti ho scoperto, cavolo. Stavi dicendo Gianni, quindi poi saluti anche a Natalino. Cosa che stavi toccando? No, ho detto che siccome qua ci sono dei tasti in gomma retroilluminati e c'è la possibilità di cambiare la potenza, cioè sia la potenza alta che la potenza bassa, high e low. Adesso è in posizione bassa potenza, in base a ridico. Comunque, dimmi se cambia qualcosa rispetto a prima. Non so, adesso prova a aumentare, adesso sei a 9, ti ho portato a 9 attenuandoti. Ecco, adesso questo è in posizione low e questa è in posizione high. Sì, che cambia, qui aumenta, da 9 si è passato a quasi a 9,20. In posizione high. Posizione cane. Ehi, è in posizione ai. Ciao Natalino, buonasera, ben entrato. Sì, vabbè, devo smanettare per trovare la funzione per programmare le frequenze, dai, comunque quando ci avrò 10 grammi di pazienza in più lo faccio. Davanti Natalino. Sì, fallo. Comunque la potenza funziona, vedi? Era un acquisto. Io ero convinto che smanettando sulla LC e roba del genere riuscivo a tirare fuori qualche wattino in più, ma non c'è storia, dai, è così e tira di nuovo così, non c'è problema. Quanto devi tirare fuori al massimo? Quello che hai detto, 4 watt hai detto. Guarda, adesso c'ho lo strumento scollegato. Comunque sono, dai, 5 scarsi, dai, niente di più. Vabbè, la potenza è quella, dai. E vuol dire che c'è un finale solo. E più di quello non sa. Una persona così comune. Vabbè, dai, zero di uno così, no problems. Vai, se mi dai un minuto, riattacco il cavetto allo strumento e lo attacco alla radio, dai. Cappa di idrogeno. Siamo qua. Avanti, Natale. Ma mi sta venendo sonno, Allora, mi sono suonato io, non ce la faccio più. Non c'è più cane, sta in casa. Chi lo dice ora? Non so più cosa fare. Ora andiamo a fare una rissa, io. Magari, non posso neanche uscire. Ma c'è quelli Marrita? Marrita di andenne, Marrita. E perché ti arrestano? Perché sono in quarantena. E quindi devo stare da bravo, là. Allora devi fare da bravo. Finché non mi liberano. Allora ci hai preso il culo. Di riflesso. Certo che è un casino quando è così. Che poi non dà sintomi, forse perché vabbè eravamo vaccinati. Però loro guardano i risultati, capito? Tamponi. Infatti, loro guardano se sei positivo o meno. Se uno è vaccinato o non gli dà sintomi o glieli dà lievi, glieli dà a me. Non glieli dà gravi. Lui ha giubilato influente, ma su davvero. Queste sono da ridere. Mi ribella, mi. Mia pedivella, mi. Poi, che tutto ciò. Un'altra vittima, mi. Anche Claudio. Eia, covidato ciò, tappeti. Facciamo reparto covid. Sì, non esci più da casa. Ui, se vai in farmacia, andare a una squadra del calcio, o una classe. Tutti pieni, tutti impestati. Tu non gli vale a me che non vado da nessuna parte, abito in campagna, cazzo, mi ha giubilato la matrice, per carità di Dio. Anche io me l'ho preso di riflesso, via traverse, l'ho guantato un paio di giorni, 2-3 giorni e poi alla fine l'ho beccato anch'io. Allora c'è un triste affare, è andata così, pazienza, va bene, dai, c'è avanti a Dubro Fretta, sì, anche qua Gianni aumenta, vai da 9-9 più 10. Eccomi, sono rientrato. Ciao Claudio, buonasera. Ciao, ti ho seguito quello che fa, vai da 9 in modalità bassa, 9 più 10 in modalità alta, quindi già funziona. Eia, andavè. Ok, ho ricollegato lo strumentino. Sì, sono 4 watt, 4 watt e qualcosina, dai, non sale di più. Siete ragionito. Pare non ha già un bel watt, invece è un bel ragione, infatti non ha. Ce l'ho io, guarda, ho provato con lo strumento. Eia, sì, mi ha detto tu la conferma l'altro giorno. Vabbè, dai, tira di nuovo così, già non ci sono problemi. Avanti a Natalino, dai. Adesso mi vendo tutto, mi vendo le antenne, mi vendo tutto. Tanto non riesco a trovarlo, questo bastardo. Ce la guardo. Non si fa vedere, non si fa trovare. Sarà molto. Ha ricoverato, Natali, vai a ripidare a vedersi i ragazzi. E a Gabaru. Ma che uno non possa fare in casa sua quel cavolo che gli pare, gli piace, ma dimmi tu, è una cosa, guarda, troppo, mi fa incazzare troppo. Prego, da voi va. Purtroppo la mamma di imbecilli ne sforna a nastro. Ma avevo buscato l'apparecchio che mi piaceva, c'ho il superstar omologato, allora avevo comprato le antenne e tutto messo. Natali, uno zoo si sente in casa tua, televisione, telefono, campanello. Natalino. Avanti, Gianni. Voglio voi che bisogna fare degli sforzi sovrumani per riuscire a capire, perché talmente come si dice, talmente amplificato il microfono che becca qualsiasi suono nell'ambiente. Voglia. Vabbè, dove, si sente proprio tutto. Io no, spero che questo non sia così. Avanti, Claudio. Perché lui c'ha tutta una stanza, ha capito già, è per quello che però esce un bambino, va bene. Infatti, vabbè, immagino l'ambiente, quindi il microfono cattura un po' tutto, dai. Però un altro poco si tende più la televisione che non è tu. Perché c'è dopo in macchina alto, adesso ammazzo. Infatti, già si sentirà in 80, ma non come lui. Natalino, bisogna fare l'invenzione della mongolfiera, attaccare un cavo alla mongolfiera e tenerla in alto sopra il palazzo e l'antenna l'attacchi lì, quella tipo canna da pesca, senza canna da pesca, te la tieni in piedi la mongolfiera. È senza un casino dell'antenna, Natalino, è veramente incasinato, peccato, esce un bel lavoro lì. E dove va? L'importante è che non sia a piedi, dai, qualcosa ce l'ha, meno male. E cosa c'ho? Niente, c'ho l'antenna che è rotta sul tetto, che quando piove mi si piena d'acqua, non c'ho nulla, cosa vuoi fare? Ho detto con la carabina gli fai un buco. Se gli sparo con la carabina vola l'antenna pure. Non la spari di certo con la carabina. E assembate 1500 metri la carabina che ho io. Io ho una Diana 4,5, dai. Vecchio modello. Diana, nome di cucciuccio di gara. Nome di carabine, boh. Che pesante, perché c'è il calcio tutto in legno massello. Quelle moderne di oggi sono leggerissime, tutte in plastica. Ah, no, già va bene. Avanti, lo bluffè. Già torno subito io. Eia. Oia. Che dire? Volevo dire un'altra cosa a Franco, ma adesso mi è passata di mente. Quando me lo ricordo te lo dico, dai. Sono due, sembra una, ma dovevi dirmi l'altro giorno. La vecchia è carogna ormai, Gianni è andato. Lo stiamo perdendo, Gianni. Sai cos'è? È come il computer, no? Quando cominci a memorizzare troppa roba, ti si intassa l'hard disk, manda in crash, cazzo, la memoria, scalda il processore, e quindi niente, ci vuole un po' di tempo per trovare le cose, dai. Oggi vedi questi dischi allo stato solido, sono piccolini, li metti dove vuoi, nel taschino anche. Non me ne parlare, io mi si è inchiodato, dai, diciamo che mi ha abbandonato un hard disk da un tera, pieno di roba interessante, roba importante, cioè tecnicamente, cioè meccanicamente funziona, però praticamente la scheda madre non lo riconosce. Adesso voglio provare su eBay a comprare praticamente la scheda logica, quella il circuito stampato che è stato qua sotto. Li ho trovati nella speranza di riuscire a recuperare i dati, dai, perché cioè, se ci penso mi si chiude la vena, dai. Purtroppo è quello il problema di questi rischi, di questi meccanici. Carlo se ne è ordinato uno, è arrivato ieri se non sbaglio. Credo che l'abbia già cambiato nel computer, nel nuovo, là, nel grande. Adesso proviamo a mettere quello che abbiamo tolto dal computer, se riusciamo a metterlo nel portatile, perché anche il portatile ormai già è in crisi, non ce la fa più. Sì, guarda, purtroppo praticamente non è la prima volta che mi succede, più o meno è la stessa marca che puntualmente mi difetta, è la Seagate. Praticamente è già secondo hard disk, l'altro era 500 giga, questo era un tera, è già la seconda volta che mi faccio la sorpresa, va. Adesso i prossimi giorni provo a comprare la scheda logica e vediamo se riesco a recuperare i dati, dai. mi auguro di avere buona fortuna. Amo anche Gizio. Io ne uso, lo uso dove ci ho caricato un sacco di film, da, c'ho dietro il televisore, lo comando poi da telecomando del televisore. Ma credo che sia un Toshiba, sempre da un tera, se non vado errato è un Toshiba. Però vedo che va bene, abbastanza veloce, e poi soprattutto me lo riconosce il televisore, che è già qualcosa, non essendo un televisore recente, dai. Ogni tanto lo collego, mi guardo un film, anche l'altro giorno da poco. E via, avanti Claudio. Claudio non c'è, Natalino. Io ne ho uno di quelli esterni di hard disk da 500, quello lì lo collego, io lo stesso c'ho film, c'ho un sacco di roba lì, capito? E il computer mio c'ha 12 anni, e sta funzionando sempre alla grande. Sì, ma no, poi ne ho un altro, me l'ha regalato un collega di Osilo, è di cinghiale proprio, c'è ancora il pelo attaccato, però è l'hard disk sotto sale, è più buono, è cibei, c'è anche un po' di venatura di carne, di pancetta. Avanti già. Mi sto rollando una zizza, dai. Fai girare, io muoviti. Questo Gianni Lubrofetta, a me mi sembra che sia tutto cuocuomane. E allora, rullando sta, Mi sto rollando una sigaretta, dai. Subito a pensare male. Ehi, va bene. Che devi fare, Ma c'è qualcuno sotto a fondo? Io ho lo squelcio aperto, quindi non sento niente. No, sento qualcuno che parla, ma non riesco a capire chi sia. E io non sento manco quello, figurati. Miglia, sta parlando. Apri lo squelcio, ce lo senti. È aperto, ce l'ho. Solo che se non passa il QRM non lo sento. No, se non lo sente Gianni, io non lo sento. Però sento che quando lo rilancio lui parla, sento un po' di QRM che si solleva, però non lo capisco. Sento basso, buonasera. Ecco, avanti, buonasera, chi sei? Cristian, da sua parte. Non ho capito. Cristian. Ah, Cristian, io sono Franco da Sassari, tu da dove muri? Sono a Buddi. Eppure siamo vicini, e ti sento a malapena. Sicuramente è colpa mia, la mia antenna non è sul tetto. Franco. Dimmi.